in primo piano. Ancora una volta buongiorno Giulia, ben ritrovate. Buon venerdì a tutti. E naturalmente nei giornali che tu hai già letto per noi, tra poco ci proporrai, ci sarà un accenno a questa frase di Barack Obama: peggio del terrorismo ciò che le armi hanno fatto, 8.000 morti nel 2015 solo negli Stati Uniti. Sì, direi che proprio c'è su tutti i giornali, perché i dati sono di ieri, come ricordavi tu, ed è forse uno dei cavalli di battaglia di Obama in questa sua fine mandato, perché sappiamo che le primarie, la campagna elettorale per le prossime elezioni è già nel vivo. Oltre a tutti i successi di politica internazionale, insomma quelli che lui considera tali, c'è anche questa battaglia interna, quella contro la diffusione delle armi in America. Noi ti seguiamo nella lettura dei quotidiani. Bene, allora iniziamo come sempre abbiamo fatto in questa settimana dal Sole 24 Ore, perché i temi economici e finanziari, quindi l'economia reale e l'economia finanziaria, anche magari per chi normalmente non la segue, in questi giorni davvero va un po', appunto, tenuta un pochino più sotto controllo, perché con tutto quello che sta succedendo in Cina ci dà da una parte l'idea di che cosa vuol dire veramente globalizzazione, che è appunto quello che succede sulla borsa cinese, ha degli effetti enormi anche sulle borse e sull'economia reale degli altri paesi, e poi perché possono esserci proprio degli effetti anche concreti nelle nostre diciamo piccole grandi vite e piccole grandi scelte familiari di economia e finanza. E quindi il titolo del Sole 24 Ore: corre il PIL americano, perché una delle sorprese di ieri, in una settimana che è stata di fatto un otto volante borsistico ma anche di dati economici, ricordiamo anche per esempio sul fronte italiano quello sulle nuove assunzioni, che sappiamo erano state annunciate nel numero di oltre 600.000 grazie al Jobs Act, e ieri ci è stato detto che in realtà sono solo la metà, quindi come dicevo grandi sorprese, otto volante su di numeri. Qui però è un numero dell'ufficio statistico americano: il PIL americano cresce del 3,7%, quindi una crescita superiore a quella prevista. Forse anche questo ha spinto la borsa americana che ieri è cresciuta. C'è sulle 24 ore di ieri, nell'articolo di apertura, uno schema questa volta non sull'andamento dei mercati, delle borse, che naturalmente poi trovate all'interno, ma appunto alla crescita nel mondo. Il campione resta la Cina con questo 7%, e poi c'è subito dopo, a questo punto, vengono gli Stati Uniti con il 3,7, segue il Regno Unito 2,8, Germania 1,6, l'Eurozona 1,2 con l'Italia che è a 0,8, il Giappone invece ancora in recessione con un meno 1,6. Queste sono le crescite del PIL relative al secondo trimestre di quest'anno. Il commento principale di oggi è di Donato Masciandaro e riguarda ancora una volta le politiche monetarie, quindi il quantitative easing che è stato di cui si è parlato tanto sul Sole 24 Ore in questi giorni, e che poi è stato di fatto iniziato dalla banca centrale cinese. E quindi il titolo dell'analisi di Donato Masciandaro: il concerto che serve alle banche centrali, perché dicevamo mondo globalizzato, le banche centrali certo hanno molta autonomia, fanno riferimento soprattutto ai loro governi e alle loro nazioni, però serve, secondo Donato Masciandaro, anche un maggior coordinamento tra istituti centrali di paesi anche lontanissimi, per esempio la Fed con la banca centrale cinese, ma Donato Masciandaro parla anche di tutte le altre banche, la banca centrale europea, quella greca, quella svedese, e di tutte le mosse che hanno fatto in autonomia o magari a volte tentando appunto questo concerto. Per quanto riguarda la banca centrale cinese in particolare e il quantitative easing deciso dalla banca centrale cinese, un'analisi di Rita Fatiguso, che è la corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, da Pechino uno swap sul debito locale, e poi la spiegazione, la notizia approfondita di questo meccanismo di politica monetaria lo trovate a pagina 2. Interessante anche una notizia che trovate solo sul Sole 24 Ore, qui parliamo di economia reale italiana: spunta il bonus per chi investe. Allo studio dei tecnici del MEF, il Ministero dell'Economia, un incentivo fiscale per le imprese da inserire nella legge di stabilità, quindi potrebbe appunto la prossima legge di stabilità, la grande legge, il grande budget dello Stato per il 2016, che dovrà presto essere approvato, potrebbe includere anche questo bonus. Gli ammortamenti verrebbero maggiorati fino al 40% con tempi più ridotti per il Sud. Come avete sentito anche nel GR, ve lo ricordo anch'io, oggi ultima puntata della guida estiva che abbiamo chiamato la guida del tuo amico Sole, che abbiamo diviso ogni settimana, c'erano due temi diversi. Per quest'ultima settimana c'è da una parte la riforma della pubblica amministrazione e oggi a pagina 36 si scende più nei dettagli, e dall'altra la scuola e quindi gli sbocchi dell'università con i vari test a pagina 37. E domani, tra l'altro, tutte le puntate, perché oggi appunto sono le ultime due puntate, tutte le puntate sono raccolte in un instant book che si potrà acquistare insieme al Sole 24 Ore. La prima pagina del Corriere della Sera, dedicata alla notizia che è arrivata ieri sul cosiddetto commissariamento di Roma. Il titolo: a Roma più potere a Gabrielli, Renzi limita i compiti di Marino, il risanamento va fatto con il prefetto Gabrielli, il prefetto di Roma. Marino è ancora in vacanza, pare che torni mercoledì 2 settembre a Roma, e ieri ha fatto sapere di aver seguito il consiglio comunale in streaming, ha lasciato trapelare qualche commento. Questo retroscena lo trovate a pagina 2, dove appunto si racconta il primo cittadino l'assenza dalla East Coast. Il sindaco segue in streaming e dice: va tutto bene. Una notizia anche che poi dopo leggeremo, perché ieri forse chi ha seguito la rassegna si ricorda, abbiamo citato questo editoriale di Paolo Mieli che parlava di come la sinistra, non solo italiana, quella europea, è molto brava a dividersi al suo interno. Questa lite di cui dà conto il Corriere della Sera viene registrata anche da tanti altri giornali, ma poi la leggeremo appunto dal Corriere della Sera, perché ieri alla Festa dell'Unità qui a Milano D'Alema ha proprio litigato con il sottosegretario Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, forse l'uomo più vicino a Matteo Renzi, e quindi appunto il titolo: a sinistra scoppia la lite tra D'Alema e Lotti. La Repubblica dedica il titolo principale alla strage dei migranti in Austria, 50 soffocati in un tir, l'ultimo orrore dei migranti. L'analisi è di Andrea Bonanni, le parole vuote dell'Europa, e poi c'è un'intervista al direttore di Frontex, che è l'agenzia europea che si occupa di immigrazione. L'emergenza durerà anni, bisogna cambiare subito, e in questa intervista che trovate a pagina 3 si parla anche dell'inutilità di fatto dei muri, che sono sicuramente fanno anche un certo impatto mediatico, ma poi a cosa può servire un muro per proteggersi da queste ondate di persone che scappano, che non hanno pochissimo da perdere e che quindi sicuramente non vengono spaventate da un muro. L'altra notizia con grande enfasi di Repubblica in prima pagina è quella dell'Alt a Marino, Gabrielli super prefetto, e qui c'è la cronaca di Francesco Bei e poi il racconto di Francesco Merlo, di cui vi leggo la prima parte, e trovate poi a pagina 8 una pagina intera. Ignazio Marino è stato messo a balia. Gli mancano solo il ciucciotto e il bavaglino con su scritto SPQR, sapete, sta per Senatus Populusque Romanus. È infatti contento come un bambino, batte le mani a Renzi e Alfano, che lo hanno avvolto in fasce e lo hanno affidato a Franco Gabrielli, che sarà la sua matrigna, la sua badante, il suo tutore, il suo insegnante di sostegno. Prefetto di ferro, poliziotto, ex capo dei servizi segreti e della protezione civile, Gabrielli è già più sindaco del sindaco. E in questa coppia formata dalla baglia e dal bambino somiglia più a Mangiafuoco che alla fata turchina. È l'orco burbero e severo che lo aiuterà davvero a non farsi male e a non fare dell'altro male a Roma, al punto che il partner potenzialmente in conflitto con questo super prefetto non è il fragile Marino, ma l'assessore Alfonso Sabella, l'ex magistrato che gira con la pistola alla cintola, un altro duro, un altro supereroe per la povera Roma. E infatti Gabrielli e Sabella già si disputano gli amabili resti di Marino. Dietro le quinte, ieri sera, hanno subito chiesto una chiarificazione sui poteri, entrambi difendendo il sindaco sino a identificarsi con lui. Gabrielli è felice di lavorare con Ignazio e Sabella, che da Marino fu nominato, dice: il governo ha riconosciuto il nostro lavoro. Davvero questo è il caso di commissariamento più clamoroso e più strano della storia d'Italia, con un'ombra di tristezza per un uomo per bene ma pittorescamente inadeguato, un onesto tontolone in mezzo ai lupi più furbi, più affamati e più feroci. E bisogna anche riconoscere che Marino è il primo cittadino di una capitale che somiglia alla Napoli 1944 raccontata da Lewis, una città da dopoguerra e da satiricon, una Roma degradata che lo ha capito ma che Marino non capisce. E l'ultima parte di questo racconto appunto di Francesco Merlo. Il commissariamento all'italiana, lo svuotamento dall'interno, non è infatti una cerimonia di passaggio, non ci sono consegne, campanellini, non c'è la grandezza delle dimissioni, non si intonano requiem, non si sente lo sbatter di tacchi, perché Marino perde il posto senza perderlo, viene reso superfluo e sempre più caraibico, non gli si permette di entrare nell'aristocrazia dei perdenti che non ci hanno saputo fare con il potere. Accompagnato da due super poliziotti che non somigliano ai carabinieri di Pinocchio ma a Bolli e De Sica, il mezzo sindaco sarà libero soltanto di scrivere il suo attesissimo libro di memoria alle Bahamas. C'è una luce accesa dall'altra parte del mare blu, cantava Sergio Caputo in Italiani Mambo. E sui superpoteri a Gabrielli titola Il Messaggero, e che racconta anche, riassume anche la relazione di Alfano su Mafia Capitale. E il prefetto affiancherà il sindaco e sono stati dati 8 punti per risanare la città. Alcuni dirigenti sono stati rimossi e poi, notizia di ieri, è stato anche sciolto il municipio di Ostia per mafia. Una notizia che il Messaggero mette in prima pagina, avete sentito anche un approfondimento nel GR, è quello dei boom dei mutui erogati. Nei primi 7 mesi c'è stata questa crescita dell'82%, che è sicuramente un segnale positivo, se non ancora il segnale che il mercato immobiliare sta ripartendo, appunto un segnale positivo per l'intera economia. Anche perché in generale quando si chiede un mutuo sono sia le banche che hanno fiducia nelle persone a cui lo erogano, ma anche chi chiede il mutuo che ha fiducia nel suo futuro e nei redditi degli anni futuri. La Stampa titola sull'episodio di cronaca di ieri sui migranti, l'orrore senza fine, decine di corpi in un tir vicino a Vienna, e poi si ricorda anche che mentre in Austria si faceva questo ritrovamento, in Libia ci sono stati altri naufragi e centinaia di vittime. Vi segnalo 2 reportage molto interessanti dalla prima pagina della Stampa che poi trovate all'interno. Alle pagine 4 e 5 Monica Perosino, inviata a Stoccolma, racconta come gli immigrati siriani che sono riusciti ad arrivare fino a Stoccolma, alcuni di loro sono riusciti a realizzare i loro sogni, i loro piccoli grandi sogni, per esempio semplicemente avere una casa. E una casa, una vita si realizza in Svezia, il sogno dei siriani, questo è il titolo del reportage. Un altro reportage, questa volta invece dall'America, da New Orleans, di Francesco Semprini, perché 10 anni fa ci fu l'uragano Katrina che distrusse di fatto New Orleans, o comunque la allagò in gran parte creando tantissimi danni. A 10 anni di distanza come è rinata la città, però c'è anche chi dice che è così titola il reportage Francesco Semprini, New Orleans ora è bella senza anima. L'Avvenire, una strage infinita, decine di migranti asfissiati su un tir in Austria, e questo è il titolo principale con alcuni commenti, però c'è anche grande spazio in prima pagina alla notizia della Corte Europea di Strasburgo che ha detto no alla ricerca all'utilizzo degli embrioni congelati in provette. È un ricorso che era stato presentato da una donna italiana. C'è anche l'editoriale di Avvenire dedicato a questa questione, il diritto riaffermato, la Corte Europea dei Diritti Umani sul valore dell'embrione umano, di Francesco Omnibene. La prima pagina dell'Unità, dedicata anche qui alla questione dei migranti, o l'Europa o gli schiavisti. Una nuova strage dei trafficanti con questi 50 cadaveri, 51 dicono alcuni altri giornali, in un tir in Austria, e poi si riassume anche il nuovo piano tedesco. Sapete che la Germania negli ultimi giorni ha cambiato idea su alcune questioni, dal numero dei degli aventi diritto d'asilo che verrà modificato al rialzo, anche le azioni che devono essere prese, secondo la cancelliera Angela Merkel, contro i gruppi guidati in generale da estremisti neonazisti che stanno attaccando alcuni centri di permanenza temporanea di immigrati in Germania. La fotonotizia però è dedicata alla morte di una americana, Amelia Boynton Robinson, che partecipò alla famosa marcia di Selma, a cui è stato dedicato anche un film per i diritti dei neri. Aveva 104 anni, è morta, e la foto è stata scattata in realtà il 7 marzo del 2015, quando si commemorò appunto a 50 anni da quella marcia di Selma, si commemorò e tutti i disordini che ne erano seguiti. Ci fermiamo un attimo però e ci risentiamo subito dopo per le ultime prime pagine dei giornali. In primo piano. Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e anche il Manifesto dedica la prima pagina e la sua foto alla strage dei migranti scoperta ieri in Austria, merce scaduta. Il titolo è anche dovuto al fatto che questo camion in cui sono stati ritrovati era in realtà un camion che dall'esterno sembrava un camion che trasportasse solo carne in scatola. Dal Manifesto anche all'interno la stessa storia che racconta, la stessa storia bellissima che racconta l'Unità in prima pagina, cioè di Amelia Boyton, che ieri è scomparsa a 104 anni, questa donna afroamericana che nel marzo del 1965, per questo la foto pubblicata dall'Unità risale proprio al marzo di quest'anno, quindi un anniversario dei 50 anni di quell'avvenimento, nel marzo del 1965 era stata una delle organizzatrici della prima e più drammatica di quelle tre dimostrazioni a Selma, appunto, nel sud dell'America, che avrebbero fatto dire a Obama: è perché loro hanno marciato che io ho avuto l'educazione che ho avuto. Quindi trovate questa storia, questo viso tra l'altro bellissimo di Amelia, un viso molto vissuto, un po' perché aveva così tanti anni ma poi perché aveva visto così tanti cambiamenti. Il Fatto Quotidiano ha un titolo ancora diverso, avete sentito anche nel GR, rilancia questa inchiesta aperta dalla Procura di Firenze che indaga sui rapporti tra il Premier e il generale della Guardia di Finanza Adinolfi. Vi segnalo anche dal Fatto Quotidiano, forse avremo poi tempo di leggere, la seconda puntata di un reportage molto divertente di Selvaggia Lucarelli dal Giappone. La prima puntata pubblicata due giorni fa era un po' dedicata a quanto sia facile o difficile o piuttosto molto facile perdersi a Tokyo, un po' perché non ci sono, la maggior parte dei cartelli persino nella metropolitana non sono tradotti in inglese, un po' perché i giapponesi, pur essendo per alcuni versi un popolo modernissimo e non da oggi, non sanno l'inglese, non è così diffusa la conoscenza dell'inglese, quindi o si sa il giapponese o diventa complicato comunicare con loro. Oggi invece Selvaggia ci racconta l'ossessione, quella che è una vera ossessione, dell'igiene per i giapponesi. Lo trovate, appunto, inizia in prima pagina e poi continua a pagina 19. La Gazzetta dello Sport ha un'intervista, alla copertina richiama l'intervista a Jovetic, il giocatore dell'Inter, per l'Inter mi faccio in 10, intervista esclusiva che emoziona il gol di San Siro al debutto, per il bene della squadra sono pronto a giocare in tutti i ruoli. Poi naturalmente un riferimento ai sorteggi di Champions di cui abbiamo parlato anche nel GR, e poi anche un bel titolo, sono contenta, insomma una bella parte della prima pagina della Gazzetta dedicata ai mondiali di atletica, alla vittoria di Usain Bolt sui 200 metri. C'è anche i 200, nessuno come lui. Il commento: incredibile e non è finita. Il commento di Fausto Narducci. Ma torniamo alle pagine interne dei giornali e ricominciamo dal Sole 24 Ore. Vi dicevo i dati dell'economia americana. L'articolo di Marco Valsania, corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, in particolare questo articolo l'ha scritto da Jackson Hole, dove c'è questo vertice convegno promosso dalla Fed, dalla Banca Centrale Americana, a cui sono invitati anche banchieri degli altri paesi, tant'è che appunto c'è anche un piccolo disegno dove si spiega come sono seduti al tavolo i vari banchieri di questi che partecipano a questo simposio della Fed. Marco Valsania da una parte ci racconta appunto questi dati sul PIL, che abbiamo visto crescita del 3,7% nel secondo trimestre, e poi però ci racconta anche di questo simposio e di una specie di controsimposio che è stato organizzato da alcuni economisti, tra cui anche il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, che si intitola ed è stato chiamato Fed Up, con un gioco di parole perché Fed è la Federal Reserve, ma to be fed up in inglese significa anche essere stufi. Quindi l'idea anche che hanno alcuni economisti e che stanno facendo, come scrive Valsania, pressing sulla Yellen, cioè la governatrice numero uno della Banca Centrale Americana, per muoversi, per fare qualcosa sui tassi di interesse. Libera le conservatori in pressing sulla Yellen. Questo il retroscena di Marco Valsania, trovate tutto a pagina 5. Tornando invece all'economia reale, prima la copertina della pagina di Imprese e Territori dedicata al piano per gli aeroporti. Spesso si è detto che in Italia ce ne sono nati negli ultimi anni anche di piccoli e poco efficienti. Adesso c'è allo studio del Ministero dei Trasporti e collaborando, coordinandosi con il Ministero delle Infrastrutture, un piano aeroporti che ne ha definiti 12 strategici. Torino rientra solo se farà sinergia Lombardia con Malpensa, spiega Giorgio Santilli, mentre Genova rimane fuori. Il commento, l'analisi sempre di Giorgio Santilli, un passo importante anche se con 5 anni di ritardo. E poi la vicenda del lavoro al sabato alla Electrolux, che stiamo seguendo, il Sole 24 Ore sta seguendo da ormai 10 giorni. Ieri c'è stato questo l'annuncio, era il giorno previsto per la risposta dei sindacati alla richiesta dell'azienda, che chiede appunto 4 sabati lavorativi in settembre, e c'è stato l'accordo. Quindi Barbara Ganz ci racconta: scongiurato il muro contro muro, via libera unitario dai sindacati. La polemica era nata perché alla Electrolux c'è anche in questo momento un contratto di solidarietà, cioè alcuni lavoratori sono a casa perché c'è stata una crisi. Allora i sindacati dicevano: prima bisogna riassumere quelli. Innanzitutto in questo momento, però, almeno per il mese di settembre, l'accordo per far lavorare anche di sabato chi comunque non è coinvolto da altre misure legate alla crisi c'è. Intesa su 2 giornate lavorative, però anziché 4, e per turni della durata di 6 ore. Torniamo al Corriere della Sera, perché come vi dicevo, siccome ieri c'era stato l'editoriale di Paolo Mieli su quanto siano brave le sinistre, quella italiana ma anche quelle europee, a dividersi al loro interno, specie se magari in quel momento sono al governo, quindi sembra troppo bello essere al governo, diceva Paolo Mieli, perciò dividiamoci e facciamo qualche disastro prima delle prossime elezioni, così da non essere rieletti. Questo era un po' il senso, con parecchia ironia in quel pezzo. E quindi dal Corriere della Sera prendiamo appunto la cronaca di quella che è stata la lite nel PD di ieri, con D'Alema che ha accusato il nuovo PD, quindi Matteo Renzi e tutti i suoi fedelissimi, tra cui il sottosegretario Lotti, dicendo: non si sputa sul passato. E Lotti gli ha risposto: voi eravate al 25%, mentre naturalmente sapete che si fa sempre riferimento a quel 40% quasi preso alle elezioni europee, che però poi tutti si chiedono che cosa sarebbe oggi se oggi si andasse a votare. L'ex premier D'Alema a Renzi, che non era presente, ma l'accusa era diretta a lui: avete perso 2 milioni di voti, presto ci sarà un bivio. La cronaca di cui parlerà Irene poi, quindi le armi negli Stati Uniti, cronaca perché ieri Obama è tornato sul tema. Trovate un articolo a pagina 17, per esempio, del Corriere della Sera, con questo virgolettato del presidente Obama, le armi, che ha ricordato a tutti gli americani che sicuramente le preoccupazioni per il terrorismo interno e internazionale sono giustificate, ma bisogna ricordare che, guardando le statistiche, uccidono più le armi negli Stati Uniti del terrorismo. Vi segnalo dalla Repubblica quello che ho trovato, un bellissimo reportage di Adriano Sofri dal Kurdistan. Del Kurdistan, dei curdi abbiamo parlato spesso, anche perché il PKK, che è uno dei partiti che li rappresenta in Turchia, perché la maggior parte dei curdi vivono in Turchia, e il PKK è il grande avversario di Erdogan, il premier turco. Il successo del PKK alle ultime elezioni è una delle ragioni per le quali Erdogan non riesce a formare un governo, e quindi in Turchia si andrà a elezioni anticipate. È una questione irrisolta da tantissimi anni, e appunto c'è una mappa che spiega come il Kurdistan sarebbe in realtà diviso tra una parte è in Iraq, una parte è in Siria, una parte è in Iran, una parte è in Turchia. Mi sembra di ricordare che una volta ho sentito questa definizione: la più grande nazione senza uno Stato. Non esiste lo Stato del Kurdistan, però i curdi rivendicano i loro diritti da molti anni. E allora Adriano Sofri ha fatto un viaggio in Kurdistan e ci racconta da una parte l'offensiva dello Stato Islamico, dall'altra l'ostilità storica della Turchia, in mezzo la sofferenza di un popolo che lotta da secoli per i propri diritti calpestati e che anche al suo interno si consuma in un acceso conflitto tra clan, tra povertà, sogni e corruzione del potere. E poi dalla Repubblica vi segnalo anche l'articolo di Emanuela Audisio su Bolt. Le 16 meraviglie dell'imperatore Bolt sono il numero 1. 16 meraviglie naturalmente sono 16 medaglie d'oro. Vi leggo la prima parte, lo trovate a pagina 50 della Repubblica, richiamato anche in prima pagina tra l'altro. Mr. Gold non lo azzoppa nessuno, né il cameraman che con il 2 ruote elettrico gli fa fallo da dietro e lo manda a gamba all'aria con una capriola perfetta, né l'uomo che da anni se l'è messo con gli spilloni sulla parete della stanza da letto. E il riferimento è appunto, l'avrete visto forse ai TG, di questo cameraman che dopo l'arrivo di Bolt ha avuto una specie di scontro, per fortuna senza gravi conseguenze per nessuno dei due, perché Bolt lo ha praticamente scavalcato con una capriola. Invece il riferimento all'uomo che lo tiene con gli spilloni nella stanza da letto è il suo rivale Gaitlin. I 200 sono suoi in 19 secondi e 55, miglior prestazione mondiale dell'anno. Superhero Bolt c'è, nessuno lo fa dimettere, il tempo lo sfiora ma non lo uccide, dopo 7 anni è ancora qui. Padrone, imperatore, dittatore, da Pechino 2008 a Pechino 2015, forever faster, se serve, quando serve. E poi continua naturalmente Emanuela Audisio. Dicevamo il boom dei mutui, lo spazio maggiore lo dedica il Messaggero, tra l'altro ringrazio l'ascoltatore che mi ha scritto chiedendo di sottolineare che si tratta soprattutto di surroghe, cioè questo 82% è legato soprattutto a chi ha cambiato banca, la surroga è questa, ma il mutuo c'era già. Vero, però insomma è comunque diciamo un segnale di vitalità se qualche cosa si muove all'interno dei mutui, nello stagnante, che sono strettamente legati allo stagnante mercato immobiliare. Quindi boom nei mutui più 82% in 7 mesi, il calo dei tassi di interesse favorisce le richieste dei prestiti per acquistare casa che arrivano a quota, sommandoli tutti, a quota 26,6 miliardi di euro. Crescono soprattutto le erogazioni a rendimento fisso che al momento hanno un costo di circa il 2,5%. Questa è la pagina 17 del Messaggero. Vi dicevo il reportage di Monica Parosino inviata a Stoccolma, ricco di foto ma anche di testimonianze raccolte soprattutto dai profughi siriani che hanno raggiunto quella che per loro era la meta finale, cioè la Svezia. Una delle cose curiose, perché ci fa capire che comunque la tecnologia forse oggi rispetto alle ondate migratorie di anni fa ha un suo ruolo. Per esempio, uno di questi migranti ha raccontato appunto a Monica Parosino: GPS nel cellulare e istruzioni su YouTube e siamo arrivati. Tra l'altro c'è un accenno a un dato che è stato diffuso ieri, lo trovate anche sul Sole 24 Ore con un articolo di Nicole degli Innocenti, che è la nostra corrispondente da Londra, che ieri l'aumento record all'interno della zona dell'Unione Europea di migranti, immigrati regolari, è stato quello della Gran Bretagna, dove nel 2014 sono arrivate 330.000 immigrati. Prima della pausa per il traffico vi ricordo anche l'altro reportage di cui abbiamo parlato, quello da New Orleans, sempre dalla Stampa, pagine 12 e 13, anche qui un ricco reportage e tante foto. La nuova vita di New Orleans, rinata bella ma senza anima, 10 anni dall'uragano Katrina, i cantieri vanno ancora avanti e cancellano le cicatrici, i quartieri poveri e caratteristici restano però più indietro. E tra l'altro si racconta anche di come molte persone abbiano lasciato la città, se ne siano andate e non siano mai più tornate. In questo senso forse rinata bella ma senza anima. Però adesso ci lasciamo un attimo per le notizie sul traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buon venerdì da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della rassegna stampa eravamo nelle pagine interne, abbiamo parlato di questa lite in diretta, se vogliamo, che c'è stata ieri tra D'Alema e Renzi. D'Alema, dalla festa dell'Unità di Milano, ha accusato Renzi di aver fatto perdere 2 milioni di voti al PD, e quindi uno si aspetterebbe magari che nello speciale festa nazionale dell'Unità a Milano, che è iniziata il 25 agosto e finirà il 6 settembre, uno speciale di 4 pagine sull'Unità, ci fosse un accenno a questo dibattito che c'è stato ieri. Invece no, si parla del tema dei migranti, importantissimo, di cui si è discusso ieri, però di questa lite a distanza, ripeto, perché Renzi non era presente, erano presenti altri rappresentanti del governo e D'Alema ha lanciato le sue accuse. Di questa lite nello speciale festa nazionale non si trova traccia. C'è invece un titolo un po' sarchiaponico, possiamo dire così, in un'altra parte del giornale, che dice: D'Alema, Gentiloni uniti sui migranti, scintille sul PD. Sull'immigrazione c'è sintonia, risposte dall'Unione Europea per cambiare la Bossi-Fini. Passiamo invece alle pagine interne dell'Avvenire, che torna su un'altra strage. Continuiamo a parlare di stragi, però come sempre dico, facendo sicuramente anche un mea culpa proprio giornalistico, a volte se ne parla nei giorni in cui avvengono e poi, come se non fosse successo niente, spariscono dai giornali. Il 17 di agosto ci fu questo attentato a Bangkok, dove morirono anche molti turisti locali, ma anche turisti. Poi poi dopo un po' di giorni in cui si faceva la cronaca, appunto la conta delle vittime, non se n'è più parlato. Oggi l'Avvenire, con un articolo di Stefano Vecchia, ci fa un reportage, quelle camicie colorate che si contendono Bangkok. C'è un vero mistero sulla strage di turisti, non si sa ancora bene chi siano i terroristi che l'hanno portata a termine. Indagini in stallo per la bomba tra la folla che ha fatto 20 vittime. Sullo sfondo il braccio di ferro politico che pesa sulle sorti di un paese ben diverso dall'immagine da cartolina che spesso gli si associa. Il governo militare cerca di rassicurare, ma i segnali non sono positivi. Pagina 3 dell'Avvenire. E poi molto spazio anche allo sviluppo delle indagini sulle morti tra i braccianti, ma anche le misure che si potrebbero prendere per arginare questo fenomeno, sempre appunto anche qui nell'ombra, tranne quando poi muore qualcuno, del caporalato. È spuntata per esempio questa ipotesi di confiscare i beni ai caporali individuati come tali, nel mirino i beni delle imprese che sfruttano i braccianti. Pagina 9, l'Avvenire ci racconta del vertice che c'è stato al Ministero delle Politiche Agricole con i ministri dell'Agricoltura Martina, Poletti del Lavoro, con Tito Boeri, presidente dell'INPS, e con gli enti di categoria. Entro 15 giorni dovrebbe arrivare un piano di contrasto al caporalato del governo. E poi una notizia un po' da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan, che ritroverete lunedì, a pagina 6 del giornale, che ha fatto un'inchiesta sul grandissimo capitolo degli sprechi in Italia. Ogni cittadino sborsa 23 euro per stipendiare i politici locali. Dalle regioni agli enti parco, gli amministratori ricevono indennità annuali per quasi 1,5 miliardi. E nei primi 8 mesi del 2015 sono stati già pagati 675 milioni. C'è uno schermo che ci fa capire un po' dove finiscono tutti questi soldi. A proposito di stragi di cui si parla solo quando avvengono e poi se ne perde le tracce, anche se naturalmente le conseguenze sono lì, il Manifesto ci racconta alcuni di quello che sta succedendo in Cina dopo le esplosioni a Tianjin. Ricorderete queste tremende esplosioni che hanno fatto probabilmente migliaia di morti? Ecco, il Manifesto racconta che appunto sono stati arrestati 12 dirigenti come conseguenza delle indagini sulle esplosioni, e poi inserisce questa notizia anche in tutto quello che sta succedendo in Cina, cioè il quantitative easing, cioè l'emissione di liquidità all'orizzonte, forse ancora. Ora, dice il Manifesto, una svalutazione dello yuan, e però appunto è un quadro un pochino più completo della Cina e delle mosse del governo in questo momento, se aggiungiamo questo sviluppo delle indagini, che invece non ho trovato sugli altri giornali, per capire cosa sia veramente successo in quell'impianto industriale a Tianjin. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo due interviste che tornano sul tema che forse Renzi non avrebbe voluto, o forse sì, rilanciare con tanta enfasi, che è quello rilanciato dal suo intervento al meeting di Rimini, dove ha detto che l'Italia è stata bloccata per 20 anni da una parte dal berlusconismo e dall'altra dall'antiberlusconismo. Sul tema è tornato ieri il Fatto Quotidiano, anche oggi con due interviste, una a Carlo Freccero, che oltre a essere neo consigliere della RAI è anche stato in passato mandato via dalla RAI in polemica con il governo di allora, che era il governo Berlusconi, e quindi dice: quella sera in cui Dell'Utri mi sfrattò dalla RAI, e ripercorre un po' la sua storia tra RAI e anche un passato in Mediaset. E poi c'è un'intervista a Bill Emmett, ex direttore dell'Economist, ora editorialista della Stampa per molti altri giornali, profondo conoscitore dell'Italia, ha scritto anche un libro sull'Italia, e quindi racconta a Silvia Truzzi: Berlusconi ha buttato via più di un decennio e la sinistra pure, quindi sostanzialmente anche lui fa questo parallelo tra berlusconismo e antiberlusconismo. Tra l'altro oltre a scrivere un libro, Bill Emmett è possiamo dire innamorato dell'Italia, infatti ha fatto un lungometraggio che si intitola, un documentario se vogliamo, Girlfriend in a Coma. La girlfriend sarebbe l'Italia, cioè la sua ragazza Italia. Sulla famosa storia famigerata del conflitto di interessi, sulla quale anche quando ero al governo la sinistra non ha mai fatto una legge, a domanda: l'opposizione non ha fatto una legge sul conflitto di interessi, alcuni suoi esponenti volevano proteggere le proprie posizioni. Questa è l'opinione di Bill Emmett, e trovate queste due interviste parallele a Carlo Freccero e a Bill Emmett a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Ancora qualche segnalazione un po' così più leggera, diversa, dal Corriere della Sera, pagina 19, un bellissimo reportage di Paolo Salom sui Masai, che sono tradizionalmente i nomadi d'Africa. Ora però la loro vita è diventata un pochino più stanziale e cambiano anche i riti di passaggio, e c'è questo grande passo avanti che per esempio sta diminuendo moltissimo la mutilazione genitale femminile. Tra l'altro questo reportage è anche uno spunto per anche citare appunto i dati su questo fenomeno molto diffuso ancora in Africa, purtroppo, e sono appunto 100 milioni nel mondo le donne che hanno subito la mutilazione genitale. Dal Corriere della Sera anche una bella intervista, un bel frutto di un incontro di Chiara Manfioletti con Malika Ayane, la cantante, che racconta un po' la sua vita, che è già ricca di successi anche se ancora molto, molto giovane, e tra l'altro ha avuto un figlio a 21 anni e dice è perché sono avida di vita, ho voluto tutto e subito. È la copertina della sezione Tempi Liberi del Corriere della Sera a pagina 23. Una notizia curiosa: quante volte ci siamo sentiti dire che dobbiamo bere tanto, tenere bottiglie da mezzo litro di acqua sulla scrivania, finirle tutte, tenerne più di una, finirle tutte entro la giornata. Michele Bocci, facendo riferimento ad alcuni studi pubblicati di recente, in particolare da un pediatra americano, acqua così affonda un mito, è inutile berne 2 litri al giorno. Dalla copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero, vi segnalo una bella intervista sulle scarpe e sul potere che hanno nell'immaginario. L'intervista è a Giulio Giorello, un filosofo della scienza. Tra l'altro alla Triennale di Milano ci sarà dal 15 settembre, una notizia che trovate oggi sul Sole 24 Ore, una mostra dedicata a una delle aziende di scarpe più famose qui nel vicino distretto di Viegevano, che è Moreschi, che compie 70 anni, ma sono tantissime le aziende di scarpe in Italia, e qui però in particolare si parla più di scarpe femminili e come appunto colpiscono l'immaginario, soprattutto quello maschile. Vi ricordo ancora pagina 19 il reportage che vi ho citato prima dal Giappone di Selvaggia Lucarelli, molto divertente, e poi in edicola oggi anche ci sono alcuni supplementi. C'è il Venerdì di Repubblica che intitola la copertina Il ritorno di Millennium, perché c'è postumo un quarto episodio della serie di Stieg Larsson, e che però non è stato scritto da lui, quindi ci sono anche alcune polemiche con la moglie, con appunto questa idea: è giusto o non è giusto continuare la saga iniziata da un altro scrittore? Quindi Il ritorno di Millennium. La copertina di 7 invece è dedicata al direttore d'orchestra Valerij Gergiev, che è protagonista della rassegna Mito, che sta per Milano-Torino, perché è una rassegna musicale che si snoda appunto tra Milano e Torino, la musica che incanta Putin. E infine l'Espresso ha una mela, la mela di Apple, ma sembra anche un Pac-Man con dei denti molto aguzzi che Pac-Man non aveva. Il titolo: cannibali digitali realizzano fatturati mai visti nella storia del capitalismo, sono più forti di qualsiasi crisi e di qualsiasi stato, così Google, Facebook, Apple e Amazon si stanno mangiando l'economia mondiale. E invece sentiamo Irene, che notizie vi darà da mangiare tra pochi minuti. Da mangiare adesso? Mi hai veramente... colto di sorpresa e spiazzato, perché quello è una cosa che non sarei in grado di fare nemmeno per la mia famiglia quasi ogni tanto. Ti chiedo, Giulia, l'intervista al direttore di Frontex su che giornale era? Ti ho ascoltato nella lettura dei quotidiani. Era sul Corriere della Sera. Visto che credo che alla fine, nonostante siano importanti tutte le cose che trattiamo naturalmente nella vita, e quello che rimarrà da 100 anni a questa parte sarà proprio questa questione delle persone che si muovono in cerca di una vita migliore, quello che stiamo vivendo in questi giorni. Giulia Crivelli, grazie per questa lettura. A te, Irene, per tutto il mese di agosto. Grazie a tutti gli ascoltatori, ai messaggi via SMS che comunque servono anche se sono critici, e buon venerdì a tutti. E molto velocemente parleremo della diffusione della vendita di armi negli Stati Uniti nel corso di Spunti di Vista, e anche dei problemi legati ai compiti e ai genitori che i compiti li fanno al posto dei figli. Tutto questo dopo il GR, a cui dobbiamo dare la linea subito.